Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La loro barca va a fuoco e affonda. A Palazzolo dello Stella muore una donna tedesca, gravemente ustionato il compagno. A Trieste Sant'Antonio gremita di fedeli prega per il Santo Padre, il Vescovo Trevisi in lui un Vangelo attuale e affascinante. L'antimafia di Trieste con la polizia di frontiera neutralizza un gruppo criminale turco che favoriva l'immigrazione clandestina. Mamma mia, fino a domenica sul palco del Politeama Rossetti di Trieste il celeberrimo musical con le hit degli ABBA. A Udine tutto pronto per il 27esimo Far East Film Festival, quest'anno massiccia selezione di cinema popolare o mainstream. L'Udinese gioca questo pomeriggio in trasferta contro il Torino, lo sport si ferma di nuovo sabato per le esequie del Papa. 12:31 minuti, di nuovo buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In apertura alla cronaca, con il violento rogo che in poco tempo ha distrutto e fatto affondare una imbarcazione a motore ormeggiata lungo lo Stella a Palazzolo. Due le persone a bordo di nazionalità tedesca, un uomo che si è salvato tuffandosi ma che ha riportato gravi ustioni e una donna che invece è morta nel rogo, intrappolata nel cabinato. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Una turista tedesca di 60 anni, residente a Borna, in Sassonia, è morta nella notte a causa di un incendio di un'imbarcazione di 12 metri ormeggiata nella darsena Marina Stella a Palazzolo dello Stella. Verso l'una di notte è scattato l'allarme da parte dei diportisti che stazionavano accanto al natante tedesco. All'interno, oltre alla donna deceduta, si trovava un uomo di 53 anni residente a Francoforte che è riuscito a tuffarsi in acqua mettendosi in salvo ed è attualmente intubato all'ospedale di Udine con ustioni agli arti superiori e al collo. Non è stato possibile elitrasportarlo al centro grandi ustioni di Padova per le avverse condizioni meteo. Il cadavere della donna è stato recuperato all'interno del relitto in mattinata dai sommozzatori del Vigili del Fuoco di Trieste. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro da parte del pubblico ministero di Udine Giorgio Milillo, che conduce le indagini assieme al nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Palazzolo dello Stella. Ignote ancora le cause. Simone Salvarani, Vigili del Fuoco di Udine. Purtroppo non si possono tuttora stabilire perché l'imbarcazione è andata completamente a fondo e quindi attualmente non possiamo assolutamente fare nessuna dichiarazione perché non è possibile proprio e dovremo recuperare prima l'imbarcazione. Intervenuta sul posto anche l'ARPA regionale e la Protezione Civile di Palazzolo dello Stella per contenere la fuoriuscita del carburante dell'imbarcazione incendiatasi con la stesura in acqua di panne antinquinamento. Palazzolo dello Stella, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E un intervento dei Vigili del Fuoco c'è stato anche poco fa per l'incendio di una casa per le vacanze lungo la strada vicinale di Virgolì in Samoggio Udinese. Quando sono arrivati sul posto con i distaccamenti di Tolmezzo, Pontebba e l'autoscala da Udine, i pompieri hanno trovato la casa avvolta dalle fiamme. L'immobile era comunque disabitato e dunque non vi sono persone coinvolte. Mentre diocesi e associazioni cattoliche si stanno organizzando in queste ore per raggiungere Roma con i fedeli che vogliono partecipare sabato alle solenni esequie di Papa Francesco, in regione continuano le veglie di preghiera per il pontefice. Questa sera alle 20:30 nella concattedrale di Pordenone una messa officiata dal vescovo, ieri le veglie a Gorizia e Trieste. Il ritratto ufficiale di Papa Francesco al centro della chiesa di Sant'Antonio di Trieste, gremita di centinaia di fedeli per la messa solenne in memoria del pontefice. Una foto più gioviale, dove il Papa fa l'occhiolino a grandezza naturale davanti all'ingresso, quasi a impersonare quel suo invito a una fede gioiosa, una speranza abbondante, una carità entusiasta, fatto in occasione del Giubileo della Speranza, un passaggio che il Vescovo Monsignore Enrico Trevisi cita nella sua omelia, per poi richiamare i fedeli a ricordare Papa Francesco nel modo più giusto. Di lui ognuno esalta un qualche aspetto parziale, afferma Trevisi. La chiesa in uscita, ospedale da campo, il clericalismo, la misericordia verso tutti e proprio tutti, la salvaguardia del creato, la pace e la guerra, l'economia che uccide, la tragedia dei migranti, i carcerati, il dramma dell'aborto. Ma il rischio è perdere di vista la sorgente da cui veniva la sua forza, il Vangelo. Un Vangelo concreto, attuale, affascinante anche per l'oggi. Un altro punto che Trieste in particolare non può dimenticare di Papa Francesco, sottolinea Trevisi, sono le parole che pronunciò nell'Angelus in Piazza Unità lo scorso luglio. Bergoglio ricordò la vocazione della città a far incontrare genti diverse in quanto porto e in quanto crocevia tra l'Italia e i Balcani. La sfida per la comunità ecclesiale e per quella civile, disse il Papa, è saper coniugare l'apertura e la stabilità, l'accoglienza e l'identità. Una sfida che, secondo Papa Francesco, Trieste aveva le carte in regola per affrontare. Le sue parole, conclude Trevisi, restano come un programma di testimonianza concreta su cui impegnarci. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la morte del pontefice, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato 5 giorni di lutto nazionale e disposto l'apertura di un registro di condoglianze in tutti gli uffici territoriali del Governo. Sarà a disposizione dei cittadini che desiderino manifestare il proprio cordoglio nella prefettura di Udine, in via Pracchiuso, dalle 9 alle 20. Anche a Gorizia ha aperto il registro di condoglianze a disposizione dei cittadini fino al giorno delle esequie, il 26 aprile. E alle 10 di sabato 26 aprile tutti gli uffici pubblici aperti e le scuole di ogni ordine e grado osserveranno un minuto di raccoglimento. E ora voltiamo pagina e torniamo alla cronaca. La polizia di frontiera di Trieste, sotto la direzione della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, ha sgominato un sodalizio criminale turco dedito al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare attraverso la rotta balcanica. A far scattare le indagini l'arresto di alcuni cittadini turchi nell'ambito dei controlli lungo la fascia confinaria di Trieste, intercettati mentre dalla Slovenia stavano trasportando in Italia gruppi di migranti irregolari, prevalentemente turco-curdi e cinesi. Dietro a quei passer, Polizia di Frontiera e Procura della Repubblica hanno ben presto scoperto un'organizzazione criminale turca con radicati contatti in Turchia, Bulgaria, Bosnia, Germania e Paesi Baltici, che con un sistema ben rodato da mesi gestiva un consistente traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica, per lo più nuclei familiari con minori che venivano fatti arrivare in aereo in Bosnia o Serbia grazie all'esenzione del visto. Da lì venivano condotti in auto a bordo di mezzi pesanti fino al confine sloveno per poi raggiungere l'Italia attraversando Trieste e proseguire verso la Germania. In tutto 52 i migranti individuati nel corso delle indagini, compresi bambini molto piccoli come nel caso di un bimbo di 6 anni trovato nel bagagliaio di un'auto. Il prezzo del viaggio variava tra i 4 e i 6.000 euro, fino a 3.000 euro costava solo il passaggio dalla Bosnia a Trieste. Nonostante i costi elevati, le condizioni di trasporto erano spesso precarie e pericolose. Le autovetture usate per i viaggi, ora sotto sequestro, erano noleggiate in Germania da connazionali residenti in Baviera, incaricati di attraversare la regione balcanica per raccogliere i migranti. La complessa operazione messa in campo grazie alla collaborazione transfrontaliera tra polizie ha portato all'arresto di 8 passer turchi. Altri 3 sono stati arrestati in seguito, mentre 2 sono stati denunciati a piede libero. 44 migranti sono invece indagati per ingresso illegale in Italia. Alcuni dei passeri arrestati, spesso ingaggiati sui social per superare più facilmente i controlli di frontiera, utilizzavano passaporti speciali turchi, documenti spesso concessi ad ex funzionari pubblici, oltre a farsi anticipare da una staffetta per verificare l'eventuale presenza di forze dell'ordine. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Appello ad Asugi dalle famiglie di 150 bambini e adolescenti disabili di Trieste senza fisiatra. La figura che coordinava la rete di fisioterapisti, logopedisti, psicologi, infermieri a loro sostegno. L'azienda li ha dirottati al Gervasutta di Udine. Da gennaio 150 bambini e adolescenti disabili residenti a Trieste hanno perso la loro stimata fisiatra di riferimento, Cristina Rumer, andata in malattia e non c'è certezza sul suo rientro in servizio. Così le cure procedono a stento perché il ruolo del fisiatra è centrale nel coordinare l'equipe di sostegno ai bambini, composta da fisioterapisti, logopedisti, psicologi, infermieri. Lucio Braida, papà di Alain. Guardi, immediatamente, il prima possibile, urgente per il gruppo di genitori, per me, per tutti noi. Suo figlio, 2 anni e mezzo, ha una malattia genetica rara, per ora incurabile. Ci è stato consigliato di una tutina Flexa, che è un'ortesi appunto che lo potrebbe aiutare nei suoi problemi, che sono collegati a una psicomotricità. E quindi io spero che qualcuno insomma ci ascolti. Le nuove diagnosi restano in capo al burlo. Gli altri, spiega Asugi, dovranno rivolgersi all'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta di Udine. Le famiglie triestine non ci stanno e hanno mandato una lettera di appello ad Asugi. Valentina Pesavento, fisiatra e direttrice della medicina riabilitativa del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione di Asugi. Un appuntamento che viene preso direttamente dalla struttura dei disturbi del neurosviluppo per facilitare questi genitori. E invece io, insieme a tutta l'equipe riabilitativa con cui sono in contatto continuo, mi cerco di assicurare quello che è il trattamento riabilitativo dei minori già presi in carico, rinnovando quelle che sono le prescrizioni o prescrivendo ausili che non sono particolarmente complessi. E chi non fosse in grado di raggiungere Udine? Allora in questo caso vedremo come risolvere il problema, nel senso che potremmo in qualche maniera sentire la fisiatra del Burlo, ma sono casi che singolarmente si presentano e che noi singolarmente risolveremo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Illustrato ieri a Gradisca di Sonzo il progetto di ristrutturazione ed ampliamento della sede del poliambulatorio cittadino, sede del distretto Alto Isontino. Alla casa di comunità i cittadini potranno accedere per i bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, rappresenterà il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione. La struttura rinnovata diventerà il collegamento funzionale di tutte le aggregazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta dell'area di riferimento territoriale e degli specialisti ambulatoriali. Sarà luogo di attività e percorsi sociosanitari di presa in carico integrata e di gestione integrata delle patologie croniche. La nuova casa di comunità porterà alla creazione di alcuni spazi con funzioni attualmente non presenti, come quelli necessari al ricovero dei mezzi di soccorso, aree ambulatoriali e aree deposito del servizio infermieristico domiciliare e dell'infermiere di famiglia e di comunità. Poi un punto di unico accesso in integrazione con i servizi sociali del comune. Saranno inoltre rinnovati l'ambulatorio infermieristico, l'area della specialistica ambulatoriale. Ci saranno uffici dedicati alle attività CUP e di anagrafe sanitaria, un punto prelievi, area per servizi riabilitativi con ambulatorio e palestra. Dopo il rinnovo del mandamento di Lignano e la nomina del neopresidente Loris Salatina, ieri Confcommercio Provinciale di Udine ha rinnovato le cariche di altri due mandamenti. In quello del Friuli Orientale l'Assemblea ha eletto presidente l'uscente Maurizio Temporini e Luca Tassotto è stato nominato vice. Nel mandamento lagunare indicati Mauro Notar Francesco nel ruolo di presidente e Fabian Boni in quello di vice. E ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da variabile a nuvoloso, ha coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 18 gradi, a Pordenone 21, a Gorizia 18, a Udine 15 gradi, a Tolmezzo 14 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 12 gradi, a Tarvisio 11 gradi, a Pada 8, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 5 gradi, a Grado e a Lignano 18. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo nuvoloso sulla zona montana, variabile sulla pianura e in prevalenza poco nuvoloso sulla costa. Saranno possibili rovesci temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera sulla zona montana e nell'alta pianura. Nella notte fino al mattino soffierà bora moderata a Trieste, poi venti di brezza. Domani 24 aprile si riapre la finestra sul cinema orientale con il Far East Film Festival che si terrà a Udine fino al 2 maggio. È stata ospite della spuntata di oggi di Buongiorno Regione la direttrice artistica Sabrina Baraccetti. Far East Film Festival sta per scrivere il 27esimo capitolo della sua lunga storia, 75 titoli da 11 paesi per raccontare il tempo e la società dell'Estremo Oriente attraverso il cinema. Quest'anno la rassegna offre una massiccia selezione di cinema popolare o mainstream e la Cina rappresenta sicuramente un caso emblematico. Sabrina Baraccetti, direttrice artistica del festival. È una commedia molto toccante, molto emozionante e anche molto divertente che si chiama Gringue. rave e sarà seguita invece da un horror coreano, per cui i generi sono moltissimi. Concluderemo questa cavalcata di film il 2 maggio con un film d'animazione in prima mondiale che è The Square, ed è molto raro. Stiamo cercando in tutti questi anni di scoprire quelli che sono i nuovi talenti, i nuovi trend di queste cinematografie che a livello mondiale presentano ancora tantissime e presentano ora e tuttora, l'hanno fatto in tutti questi anni, moltissimi elementi di qualità, di effervescenza, di ricerche artistiche molto, molto diverse anche da quelle alle quali siamo abituati. Due i premi alla carriera consegnati quest'anno al regista hongkongese Tsui Hark e alla diva del cinema orientale Sylvia Chang. Abbiamo il leggendario Tsui Hark, regista, produttore, sceneggiatore, montatore e colui che ha sempre agito per sostenere il cinema di Hong Kong, e non soltanto di Hong Kong, ha anche lavorato negli Stati Uniti. Abbiamo anche un'icona del cinema asiatico, l'attrice, non soltanto attrice, ma anche regista, sceneggiatrice, cantante, produttrice, che è nata a Taiwan, ha vissuto e lavorato tra Taiwan e Hong Kong, ed è appunto Sylvia Chang che premiamo con il gesto. Quindi abbiamo due premiati quest'anno. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Per gli spettacoli ricordiamo anche che da oggi a domenica al Politeama Rossetti di Trieste arriva nella sua versione originale inglese il musical Mamma Mia. Nel tour internazionale con cui festeggia i 25 anni dal debutto nel West End di Londra, le uniche due tappe italiane sono quella triestina di esordio e poi Milano. Per il musical un percorso lungo un quarto di secolo in cui ha entusiasmato oltre 65 milioni di spettatori, con 50 produzioni in 16 lingue diverse, diventando un fenomeno globale grazie alla storia e a una colonna sonora dalla potente energia con tutti i maggiori successi degli svedesi ABBA. Quartetto e pianoforte per il gran finale di Contrappunti, la rassegna del Teatro Verdi di Pordenone, tutta nel segno delle nuove generazioni. Oggi una serata che celebra il talento femminile con quattro giovanissime interpreti e una pianista di grande fama. Il trio, formato dalle sorelle Elisa e Giulia Scudeller, violino e viola, che ascoltiamo in una esibizione alle Settimane Musicali Internazionali, e dalla violoncellista Veronica Navapuerto, si completa con la contrabbassista Angelica Gasperetti. A queste giovani musiciste si unisce la pianista Gloria Campaner, che negli ultimi anni ha dedicato molta della sua attività a progetti rivolti a musicisti emergenti. Un concerto speciale realizzato in collaborazione con Ayed Pordenone, che celebra il 50° anniversario della fondazione, in cui le sonorità schubertiane si fonderanno con la freschezza di un'interpretazione vibrante e coinvolgente. Alle 20:30. Si chiama Limitless, ovvero illimitato, il nuovo progetto della Compagnia Brat di Porpetto in partenza oggi. Limitless inizierà fine aprile con un laboratorio destinato a professionisti e artisti in formazione, con la partecipazione di 5 giovani talenti provenienti dalle principali accademie teatrali ucraine. A luglio invece sarà la volta di una serie di eventi di teatro sensoriale, coinvolgendo tutti i sensi umani, tranne la vista. I partecipanti scopriranno un sesto senso che li unirà come spettatori e promuoverà una maggiore consapevolezza delle sfide affrontate dalle persone con disabilità visive. Una componente fondamentale del progetto Limitless sarà infatti la ricerca sulla performance inclusiva condotta dalla regista ucraina Caterina Lukianenko. Agata Garbuio della compagnia Brat spiega che cos'è il progetto Limitless. Limitless per noi vuol dire andare oltre i confini, vedere i limiti e i confini come delle opportunità di incontro e di crescita, e per noi è utilizzare quelli che sono i linguaggi del teatro, che a noi sono più affini, per incontrare le persone, per superare i limiti che a volte ci separano. Nel concreto è una serie di laboratori e performance. Cominciamo con il 23 di aprile, un laboratorio intensivo di 5 giorni condotto da Claudio Colombo con allievi sia italiani che ucraini, selezionati in collaborazione con un'IMA ucraina dalle tre maggiori università ucraine di teatro e specialmente di teatro di figura, e poi a luglio una serie di laboratori condotti invece da due registe ucraine e anche insegnanti docenti all'Università di Kiev, aperti a tutti, e saranno in diversi comuni in provincia di Gorizia. Oltre a questi laboratori in provincia di Gorizia ci saranno anche le performance che sono gli esiti di questi laboratori, quindi ogni laboratorio avrà la durata di 3 giorni e poi nel quarto ci sarà una condivisione aperta a tutti di una piccola performance creata proprio da chi è andato a partecipare a questi laboratori. Tutte le nostre informazioni sono sul sito www.compagniabrat.it e c'è una sezione dedicata proprio al progetto Limitless, che è in collaborazione con Nova Gorizia e Gorizia, capitale della cultura europea 2025. Nel programma 2025 i giovani musicisti della Gustav Mahler Jugend Orchester saranno in residenza artistica a Pordenone dal 7 al 18 giugno e dal 7 al 18 agosto, guidati dal direttore assistente Christian Blex e da una folta schiera di tutor rappresentanti delle maggiori compagini musicali europee, dai Berliner ai Wiener Philharmoniker. Dieci anni di grande musica europea a Pordenone. Tornano anche quest'anno i concerti in residenza della Gustav Mahler Jugend Orchester, fondata da Claudio Abbado e riconosciuta come l'orchestra giovanile più prestigiosa al mondo. I giovani talenti saranno in città tra il 7 e il 18 giugno in preparazione del tour primaverile e poi di nuovo nel mese di agosto tra il 7 e il 18 in vista del tour estivo. Alexander Meraviglia Crivelli è il sovrintendente dell'orchestra. Per la Gustav Mahler è diventata casa. Pordenone, per vari motivi, sia artistici ma sia anche di amicizia, inizia dal teatro e l'accoglienza, la regione che ci sopporta, ci sono gli alberghi, i ristoranti. In questi 10 anni siamo stati accolti in una maniera fantastica e tutti i musicisti, le generazioni di musicisti, si sentono tutti a casa. Un centinaio di musicisti tra i 18 e i 26 anni diretti da grandi nomi della musica internazionale, con concerti oltre che al Teatro Verdi di Pordenone anche al Duomo di Venzone e di Valvasone. Alessandro Taverna è consulente artistico e musicale del Teatro Verdi. Un decennale davvero in grande stile, con alcuni dei più grandi direttori d'orchestra, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, ma anche molti solisti accanto a loro. Questo arricchimento c'è stato davvero di sprone anche per noi come teatro ed è stato l'inizio di una collaborazione che davvero ha portato il meglio della creatività giovanile, una creatività in cui noi crediamo molto e crediamo che possa essere anche il segreto del futuro della musica classica e non soltanto. In 30 giorni di residenza complessivi, l'indotto diretto stimato è di oltre 200.000 euro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere ricordiamo che per il calcio si gioca oggi alle 18.30 la partita Torino-Udinese che era stata annullata lunedì per la morte del Papa, sospese le partite di calcio che erano invece in programma sabato prossimo, giorno delle esequie, ma le squadre regionali non sono coinvolte. Sabato si fermerà anche la pallacanestro, cancellato nella nostra regione il match Cremona-Trieste. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Samuel Montalto e Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie dell'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.